Italia in controluce. Italia in controluce, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. Scava nei problemi delle città, la cronaca politica locale, la cronaca nera e quella giudiziaria. Controllano il traffico di rifiuti tossico-nocivi, gestiscono lo spaccio al dettaglio di eroina e cocaina. Per controllare il territorio utilizzano killer spietati. Sono i casalesi, quelli raccontati nel libro di Roberto Saviano, Gomorra. Ma come è strutturato il clan e soprattutto quanti sono i casalesi? Il reportage di Paolo Picone. Più che un clan camorristico, assomiglia a una organizzazione malavitosa vicina alla struttura di Cosa Nostra siciliana. Il clan dei Casalesi risulta mantenere formalmente salda la sua struttura unitaria di tipo piramidale, con un gruppo di comando con una cassa comune in cui confluiscono i proventi illeciti dei singoli clan per l'erogazione centralizzata di uno stipendio ai quadri del gruppo, con un rito di iniziazione sul modello proprio di Cosa Nostra. Le leve del comando fino a poco tempo fa erano saldamente nelle mani della diarchia costituita da Francesco Schiavone, detto Sandokan, e Francesco Bidognetti, detto Cicciotto e Mezzanotte, i quali, malgrado fossero tenuti in regime del 41 bis, riuscivano ad imporre le proprie direttive quantomeno sulle vicende di maggiore rilevanza. Accanto a loro, in una posizione lievemente inferiore, si posizionavano Michele Zagaria e Antonio Iovine, entrambi da lunghissimo tempo latitanti e pur nella loro autonomia collegati più strettamente al gruppo Schiavone. Oggi i capi sono proprio i due superlatitanti, anche se forte è il sospetto dei magistrati che siano ancora diretti dal carcere proprio da Francesco Schiavone. Il gruppo Bidognetti è ormai invece da ritenersi in totale rotta di collisione. Nel corso di quest'ultimo anno, alla collaborazione di Luigi Diana, si sono poi aggiunte quelle particolarmente importanti del cugino del capo, Domenico Bidognetti, detto Bruttaccione, che aveva avuto importanti incarichi di vertice, e poi persino di Anna Carrino, compagna del boss Francesco. Se questi dati vengono letti unitamente alle pesantissime condanne inflitte a numerosi esponenti del clan, si può giungere alla conclusione di un pesante e definitivo ridimensionamento del gruppo che già da tempo, del resto, era in posizione subordinata rispetto a quello di Schiavone. All'interno del gruppo Schiavone, rimasto sostanzialmente egemone, sono pure in atto importanti movimenti per ricostruire gli equilibri di potere. La leadership di Francesco Schiavone è di fatto offuscata da varie condanne all'ergastolo, sia pure ancora in primo grado, che hanno riguardato anche il fratello Walter e il cugino omonimo, detto Cicciariello. Il controllo e la gestione del territorio appare quindi sempre più monopolizzata dai gruppi di Michele Zagaria e Antonio Iovine. La loro presenza sul territorio, seppure in situazione di latitanza, li sta facendo assurgere a veri capi del clan, grazie anche alla loro capacità di inserirsi nel tessuto delle relazioni economiche non solo locali. Zagaria e Iovine stanno infatti sempre più trasformando i loro gruppi in imprese con una capacità di controllo di interi settori economici, dalle costruzioni al movimento terra, al ciclo del cemento, alla distribuzione dei prodotti, al ciclo dei rifiuti urbani e tossici, accompagnata dal tentativo di farsi coinvolgere il meno possibile nelle attività sporche, interloquendo con l'imprenditoria e con le istituzioni anche di altre realtà non solo campane. Del resto è recente la conclusione del più importante dibattimento riguardante il clan, noto come processo Spartacus 1, con la sentenza emessa dopo oltre 6 anni di dibattimento. Sono stati inflitti centinaia di anni di carcere, oltre 20 ergastoli e confiscati beni per svariati milioni di euro. Condanna confermata in appello il 18 giugno 2008 e riconfermata in Cassazione lo scorso 15 gennaio. Le ramificazioni di questa potente organizzazione malavitosa arrivano davvero ovunque. Persino nell'inchiesta sugli appalti al G8 della Maddalena condotta dalla Procura di Firenze. Infatti, secondo un'informativa dei Carabinieri del Rosso, Antonio Di Nardo, funzionario del Ministero delle Infrastrutture, finito tra gli indagati, sarebbe in rapporti proprio con il clan camorristico casertano. Infine, occorre segnalare un dato che serve per inquadrare meglio i casalesi. Nei confini del loro impero, a ridosso dei comuni di Casal di Principe, Casapesenna e San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, in un fazzoletto di soli 16 km quadrati appena, vivono 50.000 abitanti e 1.200 condannati al 41 bis. Il carcere duro e i soggiorni obbligati non si contano più. Italia in controluce. Ci sono omicidi di uomini che balzano alla cronaca e restano nel tempo, nella storia. Ricordiamoci ad esempio il rapimento di Aldo Moro o l'uccisione di altri personaggi importanti come Walter Tobagi, come come Casalegno e come altri servitori dello Stato. Invece altri vengono dimenticati e restano nell'oblio, come spesso accade anche per i familiari delle persone uccise. Da Genova il racconto di Andrea Ferro. Nel camposanto delle vittime del dovere ci sono croci di serie A e croci di serie B, perché i morti sono classificati dai carnefici e la loro memoria vive di notorietà riflessa. Se uccidendo l'assassino ha scritto una pagina a suo modo suggestiva, anche il sangue che ha fatto schizzare sfugge all'oblio e resta impresso nella bacheca collettiva. Se invece è stato un criminale non etichettato, sganciato da contesti eversivi o stragisti, il dolore e lo strazio resteranno un affare privato. Storie italiane di vedove, di orfani dimenticati e discriminati da una memoria distratta e ruvida che non concede spazi neppure simboli ai quali agganciare il ricordo, né una lapide, né una strada, neppure un giardino. Ruggero Volpi era un brigadiere dei carabinieri, era originario di Pontremoli, aveva 30 anni e una bimba piccola. La sera del 12 ottobre 1977 a Genova, il piombo scaricato da una delle più feroci batterie di malavitosi lo ferì come un cane mentre stava scortando il loro capo, Cesare Chiti, il boia delle carceri, dal penitenziario di Marassi a Trani. Morirà dopo alcuni giorni all'ospedale. Bruna Scantamburlo è la vedova. Se Ruggero Volpi, il carabiniere, il brigadiere dei carabinieri Ruggero Volpi, fosse stato ucciso da terroristi o da un mafioso importante, senz'altro sarebbe stato ricordato tutti gli anni. Invece io ho dovuto aspettare 30 anni per poter mettere, sempre a spese mie, una lapide sul posto dell'agguato. Adesso noto che tutti gli anni si ricordano. Questo da un lato mi fa piacere, dall'altro avrei preferito che questo ricordo fosse stato spontaneo tutti gli anni e non perché i familiari di Ruggero in un certo qual modo hanno tirato per la giacca le istituzioni e l'arma. Al di là di questo, era un mio dovere morale fare quello che ho fatto perché il sacrificio di Ruggero non fosse dimenticato. E posso dire che ora sono felicissima di poter avere qui vicino a casa, vicino a Bassano del Grappa, una caserma intitolata a lui. E questo è un segno veramente tangibile che Ruggero non sarà mai dimenticato. Giuseppe Verducci era un appuntato di polizia. 35 anni fa gli fecero fare una fine atroce. In servizio alla Polfer, una notte su un direttissimo all'altezza di Roma, prese una gang di rapinatori che stavano assaltando il vagone postale. 4 contro 1. Gli spararono ad una gamba, poi lo scaraventarono giù dal convoglio in corsa mentre sull'altro binario stava sopraggiungendo un altro treno. Giuseppe Verducci aveva 44 anni e una figlia piccola, Adele Salvatori, la vedova. Dopo quasi 36 anni mio marito non è stato ricordato. Non è che io vado a rivangare cose che ormai abbiamo detto e sono risapute, però la vergogna è la loro a questo punto, perché gli altri caduti, per carità, per me sono tutti uguali, hanno lasciato la vita per il dovere, sono stati in qualche modo messi sugli altari e per noi no. Chissà poi perché sono stati proprio dimenticati. C'è stato tanto scalpore per queste vittime che io tolgo tanto di cappello, che sono stati ricordati e sono sempre, continuamente, sempre messi sugli altari, e invece i poveri cristi no. Io non parlo solo per mio marito, perché ormai l'esperienza è mia e l'ho pagata sulla mia pelle e su quella di mia figlia. Bisogna esserci per capire come si ci sente quando si è messi da parte, quando non si sono considerate le vite tutte in ugual misura. Italia in controluce. Siamo arrivati all'ultima storia di oggi che riguarda i Writer, la mostra disegnata sui muri è dedicata a loro. Resta la fabbrica del vapore di Milano fino al 4 marzo, il racconto di Adriana Fracchia. Nascono nella New York di fine anni 60 e inizi anni 70 i primi Writers. Scrivono ovunque sui muri il loro nome d'arte, il loro tag, come fosse un logo, per emergere dall'anonimato e marcare il proprio territorio. All'inizio il fenomeno è espressione di una cultura proletaria di matrice nera, ma ben presto il writing esce dal ghetto. Esplode come fenomeno urbano e diventa atto di contestazione e di denuncia. Dai muri si passa ai vagoni delle linee metropolitane e via via il fenomeno assume dimensioni sempre più vaste. Dagli Stati Uniti si estende anche al resto del mondo. Bross è un famoso writer italiano. Sgarbi lo ha definito il Giotto moderno. Il movimento dell'arte di strada va preso come una questione culturale, perché è un'espressione che viene dalla volontà di ragazzi che si vogliono autoprodurre, hanno voglia di creare, hanno dentro una creatività da sprigionare che oggi i vari comuni in Italia non offrono delle possibilità per farlo, offrono soltanto una repressione che sfocia nel penale o sfocia nel pecuniario, e questo un ragazzino non la voglia gli rimane, anche se paga una multa, anche se dovesse fare un giorno di carcere, anche se dovesse pulire il muro perché ce l'ha dentro. E quindi il comune dovrebbe affiancare sì magari una regolamentazione di questi atti creativi, come io li definisco e come a differenza della giunta non li definisce, però nello stesso tempo dovrebbe fornire, non so, dei laboratori artistici, quindi tu hai voglia di creare, io ti offro delle possibilità, ti offro degli spazi, non chiacchiere e multe e basta. Cioè non è un movimento vandalico, non può essere messo in questo modo, perché se io fossi un vandalo farei una riga lunga che non finisce mai, invece questo non lo è più. C'è qualcosa dietro che queste persone non vogliono calcolare, non vogliono guardare. La linea dura nei confronti dei writers è spesso ormai la via perseguita da molti comuni italiani, a partire da Milano, dove lo stesso Bross verrà processato il 7 aprile per imbrattamento. E da alcuni giorni anche Roma ha scelto la via delle maxi multe. Il presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Roma, Fabrizio Santori. È stata una carenza di carattere istituzionale da sempre presente in questa città. Noi lo vogliamo fare dando la possibilità di esprimere la loro arte direttamente sulla strada, quindi anche seguendo i loro concetti di carattere culturale. Gli spazi ci sono chilometri e chilometri di muri che comunque in questa città vengono abbandonati anche al degrado, che possono essere un punto importante di aggregazione dei giovani e dare loro la possibilità di poter utilizzare questi muri e farlo in maniera costante e anche ricambiarsi con gli altri giovani. Quindi gli spazi ci sono, è evidente che noi dobbiamo anche pensare alle regole e quindi a imporre delle multe molto severe. L'amministrazione comunale per questi atti insomma prevede multe dai 300 ai 1000 euro e su questo noi vogliamo continuare a lavorare affinché ci sia un equilibrio tra le giuste regole e anche la possibilità di esprimere la propria arte. Oggi alcuni writers vengono considerati veri e propri artisti e non imbrattatori e vengono esposti in gallerie o mostre, come succede a Milano, la Fabbrica del Vapore, dove si è appena inaugurata l'esposizione Disegnar sui muri. Per la curatrice Marina Moiana bisogna recuperare una serie nel gesto artistico. Ma cosa fa la differenza tra un writer e un imbrattamuri? Secondo me la differenza è fatta da un'idea forte e innovativa e poi da un'indubbia gradevolezza estetica o comunque qualcosa che colpisce, ma nel senso bello, che tutti si fermano e dicono oh, c'è un senso di stupore, di novità che ti fa allargare i polmoni, che ti rifiato, non che ti deprime come tanta arte contemporanea oggi continua comunque a proporre. E questo anche da parte di chi è deputato a formare dei giovani artisti, delle accademie e delle istituzioni è un compito importante, quello di vedere cosa succede e individuare quelli con più talento e permettergli di crescere, cioè che il loro destino appunto deve essere oltre la strada e hanno tutti i diritti di entrare anche sui muri dei musei, non solo dei salotti o delle gallerie. Italia in controluce, quando la radio diventa cronaca. Vi saluta qui Daniele Biacchessi e risentirci domani alle 6:30.